Perfetto giorno di Simone Spezia. In Francia al via lo sgombero del campo migranti di Calais, la cosiddetta giungla. In Italia proseguono gli sbarchi, 4.000 in arrivo in Sicilia sulle navi. In approdo ci sono anche 18 vittime. Legge di stabilità, Bruxelles si prepara a dire no all'aumento del deficit e a criticare la manovra per le una tantum. Renzi, l'importante è il bilancio futuro dell'Europa. Monte dei Paschi, verrà approvato oggi il piano industriale, stasera verrà illustrato ai sindacati, il titolo corre in borsa, guadagna più del 10%, già scambiato oltre il 5% del capitale. In arrivo oggi alla Camera la legge per il taglio delle indennità dei parlamentari firmata dai 5 Stelle, il Presidente del Consiglio controbatte, basiamoci sulle presenze. A Bari un isolato intero di case popolari occupato da abusivi, ma per il giudice possono restare. C'è Gigi Buffon tra i 30 candidati al Pallone d'Oro, con lui anche Dybala e Higuain. Per il campionato la Roma vince, accorcia le distanze dalla Juve. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se invece ci volete scrivere. Ampia pagina in apertura dedicata all'immigrazione, iniziamo da Calais in Francia, ci colleghiamo con quella che è nota come la cosiddetta giungla, ossia il campo migranti in attesa che raccoglie migliaia di persone in attesa di passare in Gran Bretagna. Ci colleghiamo con Leonardo Martinelli, che sta assistendo alle operazioni di sgombero. Leonardo, buongiorno e benvenuto, raccontaci dove sei e che cosa vedi. Sì, guarda, sono qui davanti all'hangar dove vengono smistati i migranti diretti verso oltre 200 centri di accoglienza in tutta la Francia. La giungla, come dicevi, la più grande bidonville di migranti d'Europa, si trova ad appena 300 metri da qui. Ora, il timore stamani era quello di scontri alimentati dai No Borders, sempre più numerosi nell'accampamento negli ultimi giorni, ma per il momento l'operazione si svolge in un'atmosfera relativamente calma. Alle 8 già 1.000 migranti facevano la fila e la fila si sta alimentando continuamente. I pullman partono uno dietro l'altro. Nella giungla eritrei e sudanesi hanno per lo più già preparato le loro valigie per andarsene. Gli afghani appaiono più reticenti, alcuni forse sperano ancora di salire sui camion che salgono sui traghetti diretti verso l'Inghilterra, che questi migranti però non li vuole. Per il resto sembra prevalere la voglia di lasciarsi dietro queste tende sudice, il fango, i topi, la violenza sempre più diffusa negli ultimi tempi. Per il momento è tutto qui dalla giungla di Calais. Ti ringrazio, grazie a Leonardo Martinelli per questo aggiornamento. È il terzo viaggio, il corridoio umanitario per i profughi messo in piedi dalla comunità di Sant'Egidio sembra funzionare. Sono arrivati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da Beirut i 75 profughi siriani. In tutto, con quello di oggi, sono 5 i gruppi che dal febbraio scorso hanno raggiunto l'Italia, grazie al progetto pilota dei corridoi umanitari. Frutto di un accordo tra il governo, la comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la Tavola Valdese. Un altro gruppo di 53 persone arriverà domani. In tutto 400 i profughi, quasi tutti siriani, e tra loro ci sono molti bambini. Ora saranno ospitati da una rete di case e strutture di accoglienza in tutta la penisola. A Fiumicino, per dar loro il benvenuto, il ministro degli esteri Gentiloni. L'Italia con i migranti fa la sua parte in modo civile, ha detto. Naturalmente, ha aggiunto, non lo possiamo fare da soli. Deve essere molto chiaro che questo è anche un messaggio all'Europa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Più avanti nel corso della trasmissione, nel corso di Effetto Giorno, torneremo su questi temi e verremo alla parte più strettamente italiana, quella che riguarda gli sbarchi. Sono stati 6.500 solamente nell'ultima settimana, 4.000 persone in arrivo in Sicilia, 1.000 solamente a Palermo su una nave sulla quale ci sono anche 18 vittime. Ed è proprio con Palermo che andremo a collegarci. Spostiamoci nelle aree di guerra dalle quali spesso arrivano alcuni dei profughi e andiamo alla situazione a Mosul. I curdi avanzano da est, le truppe irachene da sud e il califfo ha ordinato ai suoi di prepararsi alla battaglia finale. Sembra che per Mosul, la città dove è stata proclamata la nascita dello Stato Islamico, stia per arrivare l'ora decisiva. Per difendere la città, gli jihadisti utilizzano donne e bambini come scudi umani, posizionano ordigni chimici ovunque, ma attaccano anche, come diversivo, i territori vicino a Mosul. Dopo Kirkuk e Rutba, oggi gli jihadisti hanno colpito Sinjar, città a ovest di Mosul, enclave degli jihadisti. yazidi, comunità etnico-religiosa di origine curda. Anche se l'assalto è stato respinto dai peshmerga curdi, lo Stato islamico minaccia di invadere anche Damasco, capitale della Siria, in un nuovo video postato ieri in rete. Intanto, curdi e forze irachene si trovano a 5 km dalla roccaforte del Califfato. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'Italia, la legge di stabilità, l'attesa per le decisioni della Commissione europea. Il problema non sono le spese per l'emergenza, ma le misure una tantum, oltre a una sorta di presa di posizione del governo italiano, forse in vista del referendum del 4 dicembre. E questo che trapela da Bruxelles, che oggi, al massimo domani, invierà a Roma i rilievi sulla manovra. Non una bocciatura, ma una richiesta di chiarimenti, attesa anche da altri paesi. La Commissione fa sapere di essere pronta a dare il via libera alle spese eccezionali per migranti e terremoto, sia agli interventi di ricostruzione post-sisma, no a quelli di prevenzione, mentre a non convincere sono le entrate aleatorie, come voluntary disclosure e lotta all'evasione, pari a circa il 50% delle coperture. Il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles è su uno 0,1% di deficit PIL, anche se a preoccupare maggiormente è il deficit strutturale, che anziché diminuire aumenterà. Per Matteo Renzi però il dialogo è fisiologico. Quante volte l'ha mandata l'Europa da lettere di richiamo negli ultimi anni? Sempre. Così il Premier, che da giorni ripete, la manovra non si cambia. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla manovra è intervenuto anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea di Confitarma. Sentiamo. Noi qui stiamo a dibattere su qualche punto di decimale se passa la manovra e dobbiamo invece cambiare il paradigma di ragionamento. Innanzitutto patto di crescita e stabilità. E dire prima crescita e poi stabilità non è una questione solo etimologica, perché la crescita è la precondizione della stabilità. E il paradigma di pensiero, a nostro avviso, deve essere questo. Prima si decide quali effetti sull'economia reale vogliamo realizzare, poi si individuano strumenti e quindi risorse, e poi si interviene sui saldi di bilancio. Non si parte dai saldi di bilancio prescindendo dall'economia reale. Questa Europa, se continua con questo pensiero, non andrà molto lontano. Questo è il quadro dalla manovra, ma oggi è una giornata importante anche per il Monte dei Paschi. In questo momento in borsa guadagna il 12,24%, si riunisce il consiglio d'amministrazione. Siamo alla stretta finale per l'approvazione del piano. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buongiorno, che cosa ci dici? Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Da 3 ore effettivamente è riunito il consiglio del Monte dei Paschi. Come dicevi, in discussione c'è il piano industriale che accompagnerà la banca di qui al 2019, ed è un piano industriale particolarmente importante perché di fatto si capirà che quanta strada e soprattutto quali utili potrà produrre la banca una volta che verrà alleggerita dei 27 miliardi di sofferenze. Il mercato sembra crederci molto più che in passato, negli ultimi giorni. Anche oggi il titolo cresce in doppia cifra perché evidentemente c'è attesa per il piano, ma anche sembra registrarci ovviamente con favore l'interesse di alcuni investitori. Piano A, quindi piano JP Morgan, Mediobanca, che guarda soprattutto al Medio Oriente, in più ci sarebbero anche fondi americani, oppure piano B di Corrado Passera, che però è dato in calo, diciamo, dai bookmaker. Io ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, e poi stasera tra l'altro ci sarà l'incontro con i sindacati per illustrare il piano industriale, quello che sarà scelto. Tutti i dettagli li troverete sul Sole 24 Ore domani in edicola, molti pezzi come sempre a firma appunto di Marco Ferrando. Approda oggi alla Camera la proposta dei 5 Stelle per dimezzare l'indennità dei parlamentari, il PD controbatte. Elisabetta Fiorito, eccoci, buongiorno. Sì, proprio così il disegno di legge del Movimento 5 Stelle promette risparmi fino a 87 milioni di euro, si preannuncia però battaglia in aula qui a Montecitorio. La proposta prevede di tagliare del 50% la parte fissa dell'indennità da 5.000 a 2.500 euro netti al mese e ridurre la diaria. I risparmi sarebbero così ripartiti: 61 milioni dalle indennità e 25 dalle spese. Più di quanto, fanno notare dal Movimento 5 Stelle, si risparmierebbe con la riforma costituzionale. Ma il Premier Matteo Renzi ribatte: il PD è favorevole a ridurre gli stipendi dei parlamentari, è importante però il come. Potremmo dare l'indennità in base alle presenze. Fa notare che Luigi Di Maio ha il 37% di presenza in aula e prende il doppio di Renzi stesso, che non è parlamentare. Alla fine del mese gli si dia, dice Renzi, il 37% dello stipendio. Insomma, il disegno di legge approda in aula senza relatore, pochissime possibilità di passare in prima battuta. Sarà rinviato in commissione affari costituzionali alla Camera, ma intanto Beppe Grillo arriva a Roma. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento e noi passiamo a parlare di calcio. Due fronti, uno è quello del campionato, l'altro abbiamo, Giovanni Capuano, una prima short list dei candidati al Pallone d'Oro, no? Sì, sono 5 nomi sui 30 complessivi. Intanto c'è da dire che da quest'anno si cambia nuovamente perché è stata sciolta la partnership tra France Football, la rivista storica francese che dagli anni 60 organizza il Pallone d'Oro, e la FIFA, perché negli ultimi anni per questo accordo commerciale il Pallone d'Oro aveva cambiato natura. Si torna all'antico, votano solo i giornalisti, una lista di 30 candidati. Oggi France Football ha pubblicato i primi 5 nomi in ordine rigorosamente alfabetico e alla quarta casellina c'è il nome di Gianluigi Buffon, c'è anche Cristiano Ronaldo che occupa la quinta casellina, però insomma Buffon torna a essere candidato, poi vedremo quali saranno gli altri 25 nomi. L'eredità invece del campionato è tutta ovviamente nel caso Inter. A questo momento, a quanto risulta, Frank De Boer è ancora l'allenatore della squadra nerazzurra, forse non lo sarà a breve, forse arriverà fino a mercoledì sera quando l'Inter torna in campo a San Siro contro il Torino. Arrivano anche i cinesi perché venerdì c'è l'assemblea che deve approvare il bilancio economico del club, però quello che è certo è che i numeri del fallimento sono impietosi. L'Inter è 14esima in classifica, è più lontana la zona, dalla zona Champions League di quanto lo sia rispetto alla zona retrocessione, e soprattutto non ha un filo logico e continua ad imbarcare sconfitte. Ha già perso 6 partite nelle prime 12 giocate. Tutto questo per dire che il tempo di De Boer è scaduto, che quasi certamente ci sarà un cambio in panchina e sarà il secondo da agosto, perché De Boer aveva sostituito Mancini. Si lavora sull'ipotesi del successore. A oggi prevale la pista italiana di un traghettatore, potrebbe essere Pioli o magari anche Guidolin, e c'è qualche retroscena delle ultime ore che poi cercheremo di raccontare. Attenzione però alla voglia dei cinesi di portare un grande nome straniero. Il nome potrebbe essere quello del francese Laurent Blanc. Ti ringrazio, grazie a Giovanni Capuano, ti ritroviamo ovviamente con tutti questi temi a partire dalle 14 in tutti convocati. Tra un attimo andremo a sentire cosa succede sulle strade, ma in realtà è proprio di strade, di mobilità, di traffico e di inquinamento che vi stiamo parlando in questi giorni e tutti i giorni su Radio 24, in GR24, per un viaggio che stiamo dedicando esattamente al tema della mobilità. Ce ne parla la nostra Cristina Carpinelli. Cristina, eccoci. Sì, Simone, un viaggio in Italia per capire quali strategie sono state messe in campo e quali verranno messe in campo per la mobilità, che deve pensarsi sostenibile per l'ambiente, capace di migliorare la qualità della vita e integrare periferie e centri urbani. E dunque un viaggio, quello di Radio 24, che avrà diverse tappe, si muoverà da nord a sud, racconterà le città più virtuose e anche quelle meno virtuose. Vi racconteremo di un paese ancora indietro sul parco mezzi pubblici. In Italia circolano 23.000 autobus vecchi, altamente inquinanti, rappresentano il 46% di quelli in circolazione e contribuiscono al 2,5% delle polveri sottili che respiriamo. Ma vi racconteremo anche di città virtuose, quelle nelle quali si è potenziato il bike sharing, il car sharing, le zone C e anche appunto i servizi pubblici. Un viaggio che racconterà tutto questo partendo soprattutto da un dato, che il 59% degli italiani percepisce lo smog come uno dei più grandi rischi per la salute. E proprio sull'onda dell'emergenza smog l'anno scorso, come ricorderanno anche i nostri ascoltatori, fu istituito al Ministero dell'Ambiente un coordinamento nazionale con sindaci e regioni. Ecco, abbiamo chiesto proprio alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente che cosa è successo a un anno di distanza, e quello che sentiamo è Fabio Romeo della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente. Sulla questione dei trasporti stiamo comunque prevedendo dei finanziamenti per soprattutto per la mobilità sostenibile. Il protocollo antismog prevedeva uno stanziamento del Ministero di circa di più di 250 milioni di euro, se non ricordo male. Di questi già un 50 dovrebbero essere stati attivati dal Ministero in campo di mobilità sostenibile, ulteriori 12 dovrebbero essere messi a disposizione nei prossimi giorni, insomma, con un decreto del Ministro. E grazie dunque a Cristina Carpinelli per questo racconto. Dunque gli appuntamenti saranno nei nostri giornali radio. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Andremo a Platì, dove il parroco protesta contro il questore che ha chiesto dei funerali in forma privata e blindata per un uomo dell'Andrangheta che è morto in carcere, e poi andremo a Bari dove, come vi dicevamo nei titoli, 143 abusivi hanno occupato un intero isolato di case popolari e il giudice dice no, ma va bene così, possono rimanere, traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'inizio dello sgombero del campo di Calais in Francia e degli sbarchi che proseguono in Italia, mentre è notizia di poco fa che decine di migranti hanno attaccato e dato fuoco ad una struttura europea che gestisce le domande di asilo sull'isola greca di Lesbo. La rabbia è esplosa durante una protesta per i ritardi con i quali vengono gestite appunto le domande di asilo. Abbiamo parlato di legge di stabilità con Bruxelles che si prepara a dire no all'aumento del deficit, abbiamo parlato del Monte dei Paschi, abbiamo parlato della legge alla Camera per il taglio dell'indennità dei parlamentari firmata dai 5 Stelle. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Platì in Calabria per una vicenda che ha conquistato anche le prime pagine dei quotidiani. Che cosa succede? Muore in carcere Giuseppe Barbaro, 54 anni, condannato a 5 anni in un processo, il processo Minotauro, e ritenuto affiliato all'omonima cosca originaria di Platì. Il questore dispone che il funerale si svolga in forma privata, ristretta e blindata, e il parroco dice no, deve essere in forma pubblica. Parroco che è con noi, Don Giuseppe Svanesa, parroco di Santa Maria di Loreto. Buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno. Eccoci qua. Lei tra l'altro è tutt'altro che calabrese, è del Bresciano se non sbaglio. Sì, Bresciano, sono Svanera. Svanera. Mi scusi. Ecco. Tranquillo, va benissimo. Va benissimo. Senta una cosa, però, insomma, se il questore dispone una cosa, vuol dire che qualche rischio lo intravede, che il funerale si tramuti in una cerimonia di riconoscimento di un determinato potere, no? Benissimo, il questore può benissimo fare un'ordinanza e la manda. E si è tenuti a osservarla, cosa che io ho fatto perfettamente. Cioè, io ho seguito a piedi della lettera esattamente quello che ha scritto il questore. Però ho ritenuto che il questore possibilmente sta ordinando delle cose che non sono del tutto corrette. E perché secondo lei, padre? No, molto semplice, credo che il questore possa perfettamente proibire il corteo. Quello che non può proibire è ciò che si svolge dentro la chiesa. Allora abbiamo semplicemente trovato una disposizione, un caso che era stato risolto differentemente in Campania, e lo abbiamo mandato al ministro perché effettivamente crediamo che la cosa sia suscettibile almeno di discussione, ma, se non di cambio. Ma perché questa battaglia? Don Giuseppe, io questa è una cosa che non capisco. Se parliamo di una persona affiliata all'Andrangheta, insomma, che ci siano delle determinate restrizioni, tutto sommato ci può anche stare. Tra l'altro non mi sembra che sia un pentito, no? Non so né si è pentito né si è affiliato alla mafia. So solamente che è un uomo e che ha diritto a una sepoltura dignitosa, secondo la fede, gli abitudini, la cultura dei suoi familiari. E questi sono cristiani cattolici che hanno tutto il diritto di esigere il funerale in chiesa. Se fosse un musulmano, sì, però, musulmano. Mi faccia capire. Se, certo, non lo so, un uomo chiaramente affiliato all'Andrangheta morisse con una pistola in mano dopo aver ammazzato una persona, lei vorrebbe celebrare il funerale nello stesso modo? Se i familiari mi chiedono di seppellire quest'uomo con il funerale cattolico, io lo faccio, non ho nessun dubbio. Guardi che ne ho seppelliti di persone in condizioni molto simili a quello che lei ha descritto. Non qui, altrove, in Amazzonia, però l'ho fatto in Amazzonia. Sono contento di averlo fatto. Credo di aver riconosciuto la dignità della persona, perché davanti a Dio non c'è distinzione di persone, e queste leggi a un certo punto devono rispettare le persone, non solamente essere leggi uguali per tutti. Non si può mai fare di ogni erba un fascio. Lo sa, Don Giuseppe, che qualcuno l'accuserà di aver paura? Paura di chi? Paura dell'andrangheta, perché no? Infatti, no, scusate. No, ma mica gliel'ho detto io, ho detto qualcuno l'accuserà di aver paura dell'andrangheta, perché insomma, guardi, no? Guardi, io sono stato accusato di tutto, possono accusarmi anche di questo, ma grazie a Dio la paura non è il mio forte. Don Giuseppe, mi dice una cosa, nelle processioni che lei conduce lo fanno l'inchino alle case dei boss oppure no? Le processioni alle quali io ho partecipato, la gente segue la Madonna o il Santo, partono dalla chiesa e tornano alla chiesa. E per strada, non salutano le case di boss? Che io sappia non è mai successo. Se qualcuno lo può documentare, disponibile per parlarne. La ringrazio, grazie Don Giuseppe Svanera a questo punto, parroco di Santa Maria di Loreto. Vedremo come evolverà la vicenda. Intanto saluto Vincenzo Brandi, vice sindaco di Bari, che è la nostra prossima tappa nel Giro per l'Italia. Qualcuno tra l'altro ci chiede dov'è Platì, in provincia di Reggio Calabria, siamo in Calabria. Vincenzo Brandi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo trasecolato nel vedere questo titolo sul sito di Repubblica di Bari. Sì. Bari, 143 abusivi occupano un intero isolato di case popolari e il giudice dice che possono restare. Ma com'è possibile una cosa di questo genere? Allora, intanto dobbiamo chiarire alcune posizioni. Sì. Non sono 143 tecnicamente abusivi per il semplice fatto che molti di questi, come scritto nell'ordinanza custodiale reale, sono persone che hanno richiesto la sanatoria o la voltura e per le quali da tempo sono ancora in corso le valutazioni di queste della documentazione necessaria. Ma da quanto l'hanno richiesta la sanatoria? Ma ci sono varie indicazioni, ho visto che molti l'hanno chiesta nel 2011, altri nel 2013, nel 2014, nel 2015, qualcuno nel 2009. In alcuni casi, deve sapere, è intervenuta una legge regionale che ha di fatto modificato quelle che è la documentazione necessaria per poter concedere sanatoria e voltura, e noi abbiamo un tavolo in corso con la regione insieme ad Arcapuglia per avere dei chiarimenti su quelli che sono i parametri necessari per concederla, sì, sia nei casi di sanatoria che nei casi di voltura. Tra l'altro questi qua diciamo, questi qua sono anche indagati tra le altre cose, no? Ho capito bene? Sì, perché la procura sostiene, e non ho motivo per dubitarne, la procura sostiene che il reato di occupazione abusiva, anche ove vi fosse stata una susseguente richiesta di sanatoria, si sarebbe consumato nel momento in cui l'occupazione è avvenuta ab origine. E quindi anche ove fosse emanata la sanatoria... Sì. E quindi sanata dal punto di vista amministrativo la questione, sì, comunque il reato penale si sarebbe già configurato. Però ammetterà vice sindaco, sì, che è un po' assurda la cosa, nel senso che già qualche ascoltatore mi scrive, insomma, io mi spacco la schiena a pagare il mutuo, a pagare l'affitto, eccetera, certo, eccetera, dice, alla fine che mi frega, mi basta occupare e poi il giudice non mi fa niente, mi lascia dentro. Allora, intanto dobbiamo distinguere le occupazioni abusive vere da quelle che sono nate a seguito di mancanza di programmazione della sanatoria. Mi spiego meglio. Ci sono 91 richieste che indicano... No, mi scusi, vice sindaco, però se la interrompo. Esiste una programmazione della sanatoria? Cioè, lei si rende conto, no, che un po' suona un po' surreale? No. Io stavo spiegando un'operazione molto semplice. Ci sono persone che hanno chiesto sanatoria ma non sono occupanti abusivi all'origine, nel senso che hanno chiesto sanatoria per esempio per il decesso dell'intestatario dell'assegnazione, però è rimasta la famiglia e quindi l'assegnazione con sanatoria agli altri occupanti. Chiaro. Poi ci potranno sicuramente essere, ci saranno sicuramente, ma questo avviene in tutte le città italiane, delle occupazioni abusive. Noi negli ultimi 2 anni e mezzo, per esempio, abbiamo liberato circa 100 alloggi, cosa che non è mai successa, da occupazioni abusive, grazie anche a un lavoro di task force che sta lavorando attraverso Agenzia delle Entrate, collaborazione con la Guardia di Finanza e con verifiche a campione, stiamo andando a liberare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono occupati abusivamente. Cosa che stiamo facendo anche in itinere, nel senso che quando ci viene segnalate in modo anonimo tendenzialmente nella maggior parte dei casi che qualcuno sta aprendo una casa per occuparla abusivamente, noi facciamo intervenire la polizia giudiziaria e la facciamo liberare. Questo sta avvenendo quotidianamente. Giustamente, chiarisca solo un'ultima cosa, sì. Brandi, a prescindere, allora mettiamo da parte coloro i quali, come dire, hanno, sì, per così dire, ereditato la casa popolare da un familiare che non c'è più, gli altri li fate sgomberare oppure no? Non potete a questo punto? No, allora, sono due questioni diverse, nel senso che io oggi sto, tra oggi e domani mattina, spero oggi, sto incontrando il procuratore aggiunto della Repubblica, al quale chiederò tutta la documentazione necessaria, perché nel caso in cui io dovessi verificare che ci sono posizioni al di fuori delle volture o delle sanatorie che sono in corso di valutazione, per le quali loro hanno individuato un occupante abusivo, sarò io a operare immediatamente perché l'alloggio venga sgomberato. Chi non ha titolo dovrà uscire dalle case, su questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. La ringrazio, grazie al vice sindaco di Bari Vincenzo Brandi, che ha anche la delega su queste cose. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo subito dopo e faremo una puntata a Palermo per capire che cosa sta succedendo, perché c'è uno sbarco con 1000 migranti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: in Francia al via lo sgombero del campo migranti di Calais, 4.000 arrivi in Sicilia oggi. Legge di stabilità a Bruxelles, si prepara a dire no all'aumento del deficit e a criticare la manovra per le una tantum. In arrivo oggi alla Camera la legge per il taglio dell'indennità dei parlamentari firmata dai 5 Stelle. C'è Gigi Buffon tra i 30 candidati al pallone d'oro. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, prima di dare la linea a Mario Platero con il suo America 24, abbiamo pochi minuti per fare un punto su quello che sta succedendo a Palermo. Ancora una volta uno sbarco imponente, una nave con 1000 persone, con delle vittime a bordo, in una giornata nella quale sono 4.000 le persone che arriveranno sul nostro territorio, in particolare sul territorio siciliano. Torna da noi Agnese Ciulla, che è assessore alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo. Bentornata, assessore. Buongiorno. Allora, ci dà un quadro della situazione, lei è là tra l'altro, no? Noi in questo momento siamo in assessorato per organizzare l'accoglienza, ma sto ritornando in banchina e siamo state tutta la mattina in banchina. Perché lo sbarco sta andando avanti da stamattina, in sostanza. La nave è arrivata stamattina alle 8, sono scese le prime 300 persone, fondamentalmente donne, bambini piccoli e nuclei familiari. Poi si è fermata la discesa delle persone, sono state portate a terra le 17 salme che erano a bordo e quindi ora ricominciamo a fare scendere nuovamente le persone. Come state procedendo? Naturalmente ci sono le forze, la prefettura coordina naturalmente tutte le operazioni di sbarco, c'è la questura per le identificazioni, l'azienda sanitaria, perché tutti quelli che scendono hanno il primo controllo sanitario, sia insomma dermatologico, ma non soltanto, per cui si fanno tutte le verifiche opportune. E poi c'è naturalmente la scelta, l'attenzione alle minorenni straniere non accompagnate e ai minori stranieri non accompagnati. Quanti sono, assessore? E questo non lo sappiamo, nel senso che le ragazze sono già scese tutte dalla nave, le donne, e quindi le donne sono 105, più o meno una ventina sono le minorenni straniere non accompagnate. Non c'è la certezza perché alcune minorenni dicono di essere maggiorenni e quindi insieme all'azienda sanitaria facciamo un certificato di presunta minore età e quindi vengono accolte come minori. E questo lo stiamo facendo in questo momento. E poi nel pomeriggio saprete quanti sono i minori non accompagnati? Più o meno quando finisce lo sbarco, perché spesso i minori stranieri accompagnati non vengono censiti a bordo, perché c'è anche un dubbio sull'età. Certo. E quindi finiti poi, quando scendono tutti gli uomini, in media il 10-15% sono minori stranieri. La ringrazio. Grazie, grazie per la disponibilità, Agnese Ciulla, assessore alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.